1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, sono le 7:18 minuti, debosciati d'Italia, evviva! Che facciamo oggi? Di che ci occupiamo? Ah, ci occupiamo delle città di ieri paralizzate dallo sciopero dei mezzi, ma è ancora attuale questo metodo di protesta, lo sciopero. Beh certo, immagino voi che siete rimasti paralizzati nel traffico oppure dovevate prendere un mezzo di trasporto a dire no, farabutti, disgraziati! Ma è una delle cose che in Italia resiste, cambia tutto, si prova a cambiare tutto, ma lo scioperone, quello c'è sempre. Ci sarà con noi Oscar Giannino, torna, e poi avremo con noi l'onorevole Giorgio Iraudo, del responsabile del lavoro per SEL. Andremo anche a Treviso oggi con il sindaco, perché mi ha incuriosito molto questa ordinanza anti-accattoni, chiamiamola così, che c'è a Treviso, ma c'è anche a Venezia, c'è anche a Padova, per contrastare coloro che chiedono l'elemosina, nel senso per contrastare il racket e quindi stroncarlo così. Questo lo faremo alle 8:45, ora andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. In questo giovedì 20 marzo, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, Fed, meno vincoli sui tassi, questo è il titolo di apertura. Sull'Europa invece si concentra Repubblica, Renzi all'Unione Europea, il 3% va cambiato. Il Secolo XIX, Renzi, guerra ai vincoli europei, e Avvenire, Renzi, tetto del 3% fuori dalla storia. Mentre tutta la partita sui tagli e il piano Cottarelli, ma anche le proposte di Palazzo Chigi, sono l'apertura del Corriere della Sera, politica e appalti, i tagli di Renzi, la mappa delle spese da ridurre, ora decideremo noi. Anche per il Messaggero i tagli di Renzi, 2 miliardi dei costi della politica. Mentre Libero definisce il raggiro, il Senato deve chiudere ma crea nuove poltrone. Il presidente Grasso dà il via libera a una girandola di nomine e promozioni. L'altro dibattito che è rispuntato è il titolo della Stampa, il governo congela gli F-35. Mentre per il Fatto Quotidiano Eni, Enel, Poste, Finmeccanica, la grande rottamazione, Renzi pronto a cambiare tutti i manager che hanno fatto più di 3 mandati nelle aziende controllate dallo Stato, mentre il Giornale sulla vicenda Berlusconi titola accanimento senza fine, gli sciacalli, Berlusconi costretto anche a sospendersi dalla carica di cavaliere del lavoro. Per l'Unità, guerra per l'eredità dell'ex CAV, ormai va chiamato così, mentre il Manifesto, divieto di caccia, è la vicenda degli F-35. Insomma, come vedete, le aperture sono diversificate. Allora, ci sono sempre vicende di quelle che ci fanno tenere le mani ben strette sul volante. Come Repubblica, per il secondo giorno consecutivo si concentra sulle spese della regione Lombardia della passata legislatura, ieri la Lega, oggi Formigoni. Fiori, stuzzichini e cene, le spese pazze di Formigoni, in prima pagina di Repubblica. Emilio Randaccio racconta, che ne so, Formigoni è tra gli ospiti di Anno Zero di Michele Santoro. In attesa della comparsata televisiva, il governatore partecipa a un incontro con un parlamentare alla trattoria toscana da Tullio. Quel giovedì 12 febbraio 2009 il conto lo salda l'allora presidente della Lombardia, ovviamente carta della regione, 162 euro. E così una serie di spese come il fiorista Baratti il 14 febbraio 2010, 645 euro, il mese successivo altri 629, colpisce la cura, scrive Repubblica, con la quale Formigoni si dedica all'acquisto di olio, sottaceti e stuzzicadenti per il bar di rappresentanza del presidente. La spesa ogni mese del 2010 17,76 euro. Insomma, mettendo un euro dietro l'altro, a scrivere Repubblica, la cifra arriva ovviamente a tante migliaia di euro. Per esempio, ci sono 75 cravatte in seta 100% con iniziali personali chieste a un sarto di Napoli, 11.164 euro e 80 centesimi per acquisto di materiale. E così via. Fiori sotto aceti, pranzi con ostriche, così discutevano dei costi della politica. Questo è il titolo di Repubblica a pagina 9. A proposito di problemi giudiziari, beh, ben più serio, visto che c'è una richiesta di arresto, è quello che è piombato sul capo di Francantonio Genovese del Partito Democratico, primo parlamentare di questa legislatura per il quale è stato chiesto l'arresto e che si è subito autosospeso. Ho i fondi grazie a lui, ecco le accuse all'onorevole PD. Pagina 17 del Corriere della Sera. Chiesto l'arresto, gli accusatori lo vorrebbero in carcere, sostengono che il potere di assegnare finanziamenti ai cosiddetti enti ce l'aveva lui, l'ex sindaco di Messina, Francantonio Genovese, deputato PD di provenienza democristiana, nipote dell'ex ministro Nino Gullotti, figlio del senatore Luigi, una famiglia tutti col marchio dello scudo crociato. E nella richiesta di autorizzazione arrivata alla Camera si parla di 7 milioni sottratti alla destinazione naturale per il proprio arricchimento e per finalità di propaganda politico-elettorale. No, aver sottratto milioni, la cifra precisa non so se di 7 milioni, ma diversi milioni di euro. Come? Le nuove accuse invece per la sottosegretaria ai beni culturali Barracciu, per la quale c'era stata una polemica sull'opportunità, visto che era stata ritirata dalla corsa alla regione Sardegna, l'opportunità di farla entrare nella squadra di governo. Ebbene, si apre un nuovo fronte di problematica per il Partito Democratico e per Renzi. Nuove accuse anche per la sottosegretaria Barracciu, pagina 11 di Repubblica. Si aggrava la sua posizione, spuntano altri 45.000 euro di conti che non tornano ai magistrati. Anche la memoria difensiva presentata dalla dirigente democratica non convince i pubblici ministeri. L'accusa è di aver utilizzato la carta di credito intestata al partito mentre si trovava in un'altra città, che ne so, spese in un posto, ma lei stava a Cagliari. Anche il Fatto Quotidiano si concentra a pagina 3, Barracciu ha mentito, i PM dicono non solo benzina, c'è una questione di 40.000 euro per il Fatto Quotidiano, oltre ai 33.000 per i quali è già indagata da 6 mesi, che spuntano nelle nuove contestazioni. Ma io, rimanendo sul Fatto Quotidiano, stamattina quando ho preso il giornale ho detto evviva, evviva, è tornato, è lui. Adriano Celentano è tornato con una pagina con tutte le sue maiuscole che mi fanno impazzire, che io leggo aumentando un po' il tono della voce. Oggi Adriano Celentano se la prende con Venezia, la vicenda del TAR che ha fatto ritornare le navi delle crociere a Venezia, e con Italy e con Oscar Farinetti. Un'intera pagina di Adriano Celentano, Venezia, Italy e i carnefici della bellezza. Eccola qui, pagina 5 del Fatto. Povera Venezia, ha nemici su tutti i fronti, purtroppo dobbiamo riconoscerlo, le navi degli inchini sono davvero potenti, non solo per le loro mostruose dimensioni, in grado di scatenare tragedie come quella che ha causato il funebre inchino all'isola del Giglio, ma soprattutto per la lunga e interminabile cortina di ferro alzata dal terribile silenzio della censura. E eccole qui, insomma, la censura, un filo spinato lungo chilometri e invisibile, perché il suo reticolato è direttamente, saldamente piantato non nella terra, ma nell'animo di chi vuole uccidere l'arte della cultura. Forse per questo Dio ha voluto che 3/4 della terra fosse coperta dall'acqua. Uno spreco abnorme, avranno pensato i carnefici della bellezza. Tutta quell'acqua poteva essere tranquillamente edificabile! Pensate quanti grattacieli si potrebbero costruire sulla laguna di Venezia se non ci fosse l'acqua. Non esiste città al mondo dove il bello è così straripante ovunque ti volti. Ma il nemico più feroce è il TAR del Veneto, che in modo ottuso e spregiudicato ha dato torto ai tanti oppositori dello scempio veneziano. Le gigantesche imbarcazioni non solo, secondo il miserabile TAR devono continuare a sfilare davanti a Palazzo Ducale. Ma a dispetto degli ambientalisti ha cancellato il decreto che vietava il passaggio sulla laguna alle navi che superavano le 40.000 tonnellate. Purtroppo il miserabile deve aver deciso che più le navi sono pesanti, meglio è per Venezia. Ma dietro la lista dei nemici dell'arte e della cultura si nasconde una sottolista molto più pericolosa di quella apparente, con tanto di nome e sfrontata visibilità in ogni talk show, come questo Oscar Farinetti, che appena può rincorre la luce dei riflettori per sprecarsi in parole ipocrite come cose semplici che vengono dalla campagna e di mangiare sano. Ma la tua cultura, scrive Celentano, caro Farinetti, è solo una facciata per riempire le tue tasche. Dico allora che era giusto rilevare il Teatro Smeraldo, ma non per umiliarlo con due salsicce arrosolate sul cemento, come hai fatto tu, ma per ristrutturarlo, valorizzare la sua immagine storica. E anche tu, caro Vittorio Sgarbi, si può essere amici di Farinetti, non dico di no, ma uno come te che ha un'idea da difendere, e la tua sembra davvero un'idea sana, non può andare all'inaugurazione, anche se di un amico, per festeggiare la distruzione di uno dei maggiori teatri milanesi, divenuto ormai un impero dove più di 5 generazioni si sono ritrovate per gioire e riflettere sulle tante storie che da quel palco, nelle varie forme artistiche, ci venivano raccontate. Grazie. Grazie al Fatto Quotidiano, grazie ad Adriano Celentano, per avermi regalato questa pagina pubblicità. Alessandro Milan, il mago di Oz dell'informazione. Il mago di Oz addirittura. Vabbè, io vorrei una pagina di Adriano Celentano al giorno, ve lo dico, e la declamerei tutta se possibile. Questa è la verità. Venendo alle cose più serie della politica, allora, ieri Matteo Renzi, l'avete sentito, ha detto nell'esordio europeo, in qualche modo, in un dibattito in Parlamento, il tema del 3% come parametro è oggettivamente anacronistico. Temi cruciali per l'Italia e l'Unione Europea, come racconta Emilia Patta a pagina 5 del Sole, non ci sarà uno sforamento, forse una modifica dal 2,6 al 3%, quindi arrivare proprio al limite del parametro accettato dall'Unione Europea e dai trattati, come racconta anche Repubblica nel retroscena, firma Alberto D'Argenio in prima pagina. La data da segnare in rosso è il 10 di aprile, il giorno di approvazione del documento di economia e finanza da mandare a Bruxelles, il DEF. Quello, scrive Repubblica, può essere il momento della verità. In quel documento, dice Renzi ai suoi, potrei portare il deficit dal 2,6 al 3%. Così Renzi spiega a chi gli chiede numi su come intendere trovare le coperture delle riforme del taglio delle tasse. Risponde così: meno di un mese al momento della verità, così titola Repubblica pagina 3. Il premier nel DEF alzerò il disavanzo. I suoi consiglieri dicono siamo pronti a litigare. Racconta Repubblica che ancora lunedì a Berlino la Merkel ha detto: Matteo, non devi rispettare solo il tetto del 3%, devi guardare anche al fiscal compact, che non possiamo derogare appena entrato in vigore, è la nostra garanzia di credibilità di fronte ai mercati. E allora Renzi è pronto a giocarsi questa partita nel DEF, nel documento appunto di economia e finanza. Tra l'altro, a far riflettere sulla possibilità concreta di alzare subito il disavanzo, scrive Repubblica, sono state anche le parole di Massimo D'Alema. Ebbene sì, insomma, sono cambiati i tempi, non è più il momento di rottamazione, non è più il momento di litigi. Massimo D'Alema l'altro ieri alla presentazione del libro, presentato peraltro da Matteo Renzi, aveva detto al premier: alziamo il deficit e loro riprendono la procedura di infrazione? Tanto la commissione è in scadenza, ne discuteremo con quella nuova. Ecco, in realtà, scrive Repubblica, il rischio è più immediato rispetto a novembre. Nel governo si calcola che la commissione, per tempi tecnici e col rischio che agli europei i populisti facciano il pieno, non dovrebbe intervenire prima del voto del 25 maggio. Allora, c'è la via più ortodossa, che è quella del Ministero del Tesoro, dove Padoan è comunque pronto a seguire Renzi, ma facendo deficit con parsimonia. È la via che in fondo si preferirebbe non sfidare Bruxelles, questo al tesoro, oppure la linea di sfida più verso Bruxelles. Cosa prevarrà? Secondo Repubblica, il 10 aprile è una data da segnare sull'agenda per il documento di economia e finanza. E vedremo. Intanto da qui ad allora sarà tutto un dibattito di come recuperare questi soldi per tagliare le tasse. Allora riparte ufficialmente il dibattito sugli F-35. Ieri il ministro della difesa Roberta Pinotti, intervistata all'invasione barbarica, ha detto che il, e questo è il titolo per esempio della Stampa, la Pinotti congela gli F-35, sospesi tutti i pagamenti. Il ministro dice: attendiamo l'indagine conoscitiva, vediamo se è il caso di ridimensionare. In realtà non è una, come dire, un ridimensionamento, un annuncio, anche per Repubblica: gli F-35 dal Quirinale stop ai tagli, ma il governo sospende i pagamenti alla Lockheed, cioè alla società che li produce, all'azienda che li produce. Anche il fatto: F-35 verso il taglio, Renzi riporta Napolitano in hangar, cioè si parla di questo contrasto perché il Quirinale sarebbe più propenso a mantenere il programma. Anche per il Manifesto, questa è l'apertura di prima pagina, e poi pagina 2, aria pesante per gli F-35, scrive Andrea Fabozzi. Il documento era pronto da settimane sulla scrivania del capogruppo del PD alla Camera, Speranza, che martedì ha deciso di farlo conoscere a tutti i deputati del PD. Ne dovranno discutere in assemblea entro fine mese. Per il momento le considerazioni conclusive firmate dai deputati sono dirompenti. C'è la richiesta di rinviare ogni attività contrattuale relativa ai caccia F-35 in vista di un significativo ridimensionamento del programma di acquisto. E c'è soprattutto, come già anticipato dal Manifesto, la scoperta di oltre 1 miliardo di spese per armamenti nascoste al bilancio della difesa e finite nei capitoli di altri ministeri. In pratica dicono: tagliare si può, vedremo se Renzi saprà farlo, questo i deputati del PD. Sta di fatto che è tutta una ricerca, una rincorsa a dove trovare i soldi. Allora, guardate un po', la nuova idea di Cottarelli è risparmiare fino a 2 miliardi sui fondi ai partiti e al Parlamento. L'abolizione delle province. È in corso la 46esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Comunque, dall'abolizione delle province ci saranno 900 milioni di risparmi. Se mai ci saranno l'abolizione delle province, questo giurano al governo. La nuova idea è questa, attenzione, visto che parleremo di sciopero ieri, di mezzi bloccati. Il Messaggero, pagina 5, bus e treni, tariffe a rischio raddoppio. Avete sentito bene, tariffe a rischio raddoppio per autobus e treni. Questa potrebbe essere, nel piano di Cottarelli, l'idea di aumentare i prezzi dei biglietti per coprire il costo dei servizi locali. Beh, facile, no? Facilissimo. Ma abbastanza facile. Bisogna finanziare i servizi locali, raddoppiamo il costo dei biglietti. Per carità, sono tutte idee. A proposito di queste idee, è interessante leggere quello che l'Unità, pagina 4, racconta con Bianca Di Giovanni, un retroscena del gelo che ci sarebbe ormai a Palazzo Chigi proprio sul commissario Cottarelli. Questo è il titolo: il gelo di Palazzo Chigi sul commissario Cottarelli. Non sono piaciute a Matteo Renzi le slide uscite inopinatamente, distribuite ai parlamentari. Dalle stanze della Presidenza del Consiglio si sottolinea come quella della spending review una partita ereditata dal passato governo. Parole pesantissime dietro le più diplomatiche: sceglieremo noi. Insomma, l'impostazione del lavoro dell'uomo della troica, come chiama qualcuno Cottarelli, mostra parecchie contraddizioni con gli obiettivi economici enunciati da Renzi. Annunciare o far trapelare questo numero degli 85.000 statali forse da tagliare, e far insomma trapelare idee di tagli alle pensioni, che subito infatti Renzi ha smentito. Insomma, pare che ci sia il gelo, pare che ci sia un dietrofront nei rapporti tra Cottarelli e Renzi, tra Palazzo Chigi e il commissario per la spending review. A proposito di tagli, Sergio Rizzo dà la sua ricetta. a pagina 5, o meglio si fa alcune domande a pagina 5 del Corriere. Che ci fanno le società di Stato a peso d'oro? Una società per esempio come la RAM, che ha 5 consiglieri di amministrazione e 2 impiegati secondo i dati della Camera di Commercio. È la Rete Autostrade Mediterranee, società del tesoro creata pomposamente nel 2004 per il grandioso progetto delle autostrade del mare. Oppure il consorzio parapubblico Imast, che aveva 25 consiglieri di amministrazione e un solo dipendente. 25 consiglieri di amministrazione, un dipendente. Poi uno scatto di decenza lo fece fondere con un altro ente parapubblico, la Campec, che aveva 11 consiglieri e 8 impiegati. Oppure che ci fa, che combina la società Studiare Sviluppo, si chiede Sergio Rizzo, il cui amministratore Carlo Nizzo ha incassato 261.771 euro, cifra perfino inferiore a quella toccata nello stesso anno a Riccardo Mancini, l'uomo che l'ex sindaco di Roma Alemanna aveva collocato all'Euro SPA, che ora se la deve vedere con un processo di tangenti. Oppure chi ricorda la Sogesid, fatta 20 anni fa per gestire la legge Galli sui bacini idrici? La Sogesid è sopravvissuta con 5 consiglieri guidati da Vincenzo Assenza, già vicepresidente della provincia di Siracusa, retribuzione 326.000 euro nel 2012. Insomma, sono tutte queste società sulle quali Sergio Rizzo dice: ma che succede a queste società? Che ci fanno? Non sono sprechi? Non lo voglio chiedere a Mauro Meazza, per carità, non avrà la risposta, lui ha le risposte su tutto! Su tutto, ma intanto gli do il buongiorno. Mauro, eccoci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì, buongiorno, in una bella foto. No, tu oggi ci sei, eccoci. C'è una bella foto tua, interessante servizio, però sull'andamento delle nostre università. Non ti so dire sì, perché sì. Abbiamo così tanti consiglieri. Certo, dovremmo essere pieni di consigli. È la foto scattata quella nell'83, grande annata dell'83. Grande annata, è una tua foto dell'83 questa. Comunque invito forse dell'85, 85. E anche le ascoltatrici a guardare oggi pagina 23 del Sole 24 Ore, bella foto di Alessandro Milan. Crollo delle vendite del Sole oggi. Sotto un interessante articolo peraltro di Alessandro Schiedaro, che analizza il rapporto sulla qualità delle università, università migliori e peggiori secondo anche il numero di matricole che arrivano alla laurea, ahimè sempre troppo basso rispetto ai dati europei. Ma tant'è, insomma. E poi si parla dello stadio del Milan anche, sulle 24 ore. Cominciamo dallo stadio a ricostruire un po' le macerie. Ci vorrà un po' di tempo, mi sembra di capire, sì. Però Casa 24, sai che il giovedì noi abbiamo queste pagine dedicate proprio alla casa, all'edilizia, e tra le altre cose c'è anche questa curiosità, per dir così, il Milan che cerca partner per costruire lo stadio. Allora, sai che cerca, sai che cerca anche un allenatore, pare che Seedorf, anche lui, via, questo è il gesto del... Via. Così, vabbè, no, così. Ma ti sei candidato perché tu hai il cognome adatto. Vedo che adesso il cognome va forte, sì. Quindi potresti candidarti tu. Il Milan allenato da Milan in fondo sarebbe una cosa abbastanza, senti, molto più seriamente. E per tutti coloro che hanno cartelle da Equitalia che vogliono sanare senza il pagamento degli interessi, probabilmente la sanatoria verrà prorogata, lo spieghiamo in norme e tributi. E poi, riservato ai cultori della materia, due cose: trattamento delle perdite su crediti quando si ha a che fare con fallimenti, è importante, e il fatto che gli avvocati potranno finalmente specializzarsi e segnalarlo ai clienti. Questa è la novità, che fino adesso dice: sono specializzato in questo settore, diritto di famiglia. In realtà l'avvocato è già specializzato, sì, il chiaro. Fatto che cambia è la segnalazione, che viene adesso regolata. Hai studiato il condominio? Orca miseria. Vabbè, comunque oggi ho spiegato, va bene così. Però guarda che c'è il codice del condominio in edicola, ci sono tutte le norme e anche degli schemi che spiegano tutto il procedimento che bisogna attuare per fare delle modifiche. Mi stai facendo tornare quegli incubi di quando dovevi fare ancora 3 esami all'università, che torni indietro. Tu lo sai che ti metterò il conto dello psicologo poi dopo. Non abbiamo ancora niente a proposito sulla psicologia, però vediamo se tra i dizionari che abbiamo in uscita il martedì possiamo segnalarti anche qualcosa a proposito. Va bene, caro Mauro, che dobbiamo dire? Eccolo. Non lo so, devo dirlo? Ma sì. Lo dico. traffico. Alessandro Milan, il master chef dell'informazione. Beh, da panettiere a master chef il passo è notevole, effettivamente. Allora, cari ascoltatori, la notizia politica che coinvolge Silvio Berlusconi certamente è ancora ben presente sui giornali. La notizia è che Silvio Berlusconi si è autosospeso, anche per non incappare in una sospensione dall'Istituto dei Cavalieri del Lavoro, si è autosospeso anticipando le mosse dei cavalieri, quindi non è più il cavaliere, è l'ex cavaliere, come dire, Forza Italia senza Berlusconi. E tra l'altro c'è l'aspetto, oltre a questo, l'aspetto politico, e cioè sempre più insistenti, ma queste voci insomma un giorno sono insistenti, un giorno no, sempre più insistenti le voci di un Berlusconi da candidare. Sarà Marina, come si è vociferato, ma lei ha sempre smentito. Allora sarà Barbara, la figlia minore? O no, ora spunta Pier Silvio. Pier Silvio sembra il più probabile, piano Silvio più Berlusconi per tutti, secondo Libero è così, o Marina o Barbara o la Pascale. Secondo invece gli altri giornali, soprattutto La Stampa, è Pier Silvio Berlusconi che è nettamente in prima fila per essere candidato. Un Berlusconi capolista è pressing su Pier Silvio, scrive Ugo Magri in prima pagina della Stampa e poi continua a pagina 7. Sta di fatto che l'idea è quella di candidare un Berlusconi. Sentite invece la proposta di Sergio Gaddi a pagina 3 del giornale. La proposta è ben più secca: il partito cambi nome. Silvio Berlusconi non si può più candidare per la rabbiosa decisione dei giudici. Cambiamo nome al partito. Da domani Forza Italia si chiami, udite udite, Berlusconi. Questa è la proposta a pagina 3 del giornale. Cambiare il nome del partito da Forza Italia a Berlusconi. Su questo si esercita col suo consueto spirito e con la sua consueta penna acuminata Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa col suo buongiorno. Il titolo è l'innominato. Il cavaliere non è più cavaliere, si è autosospeso, cioè è sceso da cavallo un attimo prima che la Federazione Nazionale dei Cavalieri lo buttasse giù. Non potendo ancora ignorarlo, si pone dunque il problema di come chiamarlo. L'abbreviazione CAV va in soffitta, insieme con la versione extra large, per la disperazione dei paleogiornalisti, quasi tutti di sinistra, adoratori di Ferrara, che quel nomignolo inventò nel sostanziale disinteresse del resto della popolazione. Il dottore è l'appellativo con cui le segretarie, dipendenti, Arrigo Sacchi, Galliani lo hanno sempre evocato in azienda. Ci sarebbe presidente se non facesse riferimento a due entità in crollo verticale, Forza Italia e il Milan. E poi è così che vengono chiamati D'Alema e gli altri politici in pensione. Il Berlusca rimane il soprannome più milanesoide, in fondo più vero. Papi suscita imbarazzo, love of my life, ilarità. In ogni caso il primo è un'esclusiva delle para minorenni, il secondo delle igieniste dentali. Silvio, ma un non so che di patetico, di eccessivamente confidenziale. Alla fine, temo, bisognerà rassegnarsi a chiamare Berlusconi nell'unico modo che riesca ancora a identificarlo: il papà di Matteo. Così Massimo Gramellini oggi sulla Stampa. E intanto la cronaca, beh, ci sono novità per la vicenda delle baby escort. La novità è che è stato identificato dai giornali, almeno, il figlio del parlamentare che è indagato. Si tratta del figlio dell'onorevole Donato Bruno di Forza Italia, è Nicola Bruno, classe 1979, avvocato come peraltro il padre che è anche deputato, ed è uno dei tanti frequentatori, scrive il Messaggero, del seminterrato di Viale Parioli, dove per poche centinaia di euro si poteva consumare sesso veloce con due ragazzine. Così scrive Valentina Errante a pagina 13 del Messaggero. Baby Squillo spunta, il figlio del deputato Nicola Bruno, avvocato di 35 anni, tra l'altro sposato da pochi mesi. Anche il Corriere della Sera, pagina 21, è un avvocato 35enne individuato così il cliente, figlio del parlamentare, l'articolo di Fiorenza Sarzanini. racconta questa vicenda, ma attenzione perché sulla stampa con Grazia Longo c'è un nuovo particolare, spunta un'altra utenza che è attenzionata dai PM, intestata al Consiglio di Stato. Chi si nasconde dietro il numero che emerge dalle 4.500 pagine di tabulati telefonici? Un giudice? Un alto funzionario? Un dirigente? L'unico dato certo è che un apparecchio cellulare registrato all'importante organo giurisdizionale amministrativo è stato usato a tutte le ore del giorno e della notte per stabilire un contatto con le due ragazzine. Dunque, insomma, si dice anche in questi casi trema la Roma bene, nel senso che sono sempre più anche i nomi di indagati, come si suol dire, eccellenti. Attenzione ai telefoni, solo un flash, perché anche Sarkozy è stato beccato. Quei giudici sono dei bastardi. Questa è l'intercettazione dell'ex presidente francese. Vabbè, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Ancora oggi mi tocca dare il premio al giornale che con Vanni Zagnoli dedica un'intera pagina, mica un trafiletto, mica un quarto di pagina, mica mezza, ma un'intera pagina. È tornata la flippermania. Tutti chi? Ma dove li vedete quelli che giocano a flipper? Ma sì, ci sarà qualcuno. Ha una pagina sul giornale. Soprattutto si gioca con eroi e superstar. Dopo anni d'oblio, il gioco riprende quota. Chi non ha a casa un flipper? Ma come no, amici del giornale? Andiamo al giornale radio, va.